dai mesi scorsi era nota la completa implicazione del governo fondamentalista iraniano nelle vicende interne all'Iraq, tanto che nei giorni scorsi l'ex presidente della Repubblica Rafsanjani dichiarava che il polso del mondo batte a Baghdad e non a New York. Questo già di per sé faceva pensare un spostamento di crisi, di centro di crisi, è un massiccio intervento del governo iraniano in tal senso, mentre i servizi segreti europei tutti dicevano, insomma, parlavano e parlano ancora oggi di un collegamento tra Muqtada Assad e l'ala oltranzista dei fondamentalisti iraniani, noi invece ci troviamo in Italia in una situazione alquanto contraddittoria. Cioè siamo noi guardati a vista dalle forze di sicurezza italiane invece che il governo iraniano. Voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che soprattutto nel 93 in Italia il rappresentante del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, Mohammad Hossein Nardi, è stato assassinato, c'è una procedura penale aperta contro alcune persone che sono cittadini iraniani e uno di loro è addirittura un diplomatico iraniano. Dunque noi chiediamo la riapertura del caso e nel condannare fermamente l'assassinio di Fabrizio Quattrocchi vogliamo chiedere la riapertura di questo caso da parte della magistratura italiana. Chi sono i mandanti esecutori del caso Nardi? Infine posso dire che siamo estrefatti dal comportamento di tutti coloro che si dichiarano contro il terrorismo e invece intavolano trattative con coloro che vengono definiti tra virgolette stati canaglia, una contraddizione che non trova spiegazione alcuna secondo noi. Poi se vogliamo chiarire di più è che posso dire semplicemente che le nostre attività sono talmente trasparenti perché si tratta di attività di denuncia e un'attività politica, dunque non abbiamo assolutamente nessun remore a essere controllati e sottoporci ai controlli. Dunque invece c'è il governo iraniano che non capiamo come può non avere collegamenti con gruppi terroristici, però avere una grande influenza, tanto che tutti chiedono un loro intervento su questi gruppi terroristici. Ali Gaderi, reporter associati per Amisnet.